Storie italiane. Un raggio di speranza. C'era una volta, nella bellissima e piccola isola di Icecap, una bambina di nome Hope. Hope era gentile, allegra e piena di vita. Adorava la sua vita a Icecap e giocava tutto il giorno con il suo cane, Zolky. Di notte, sua madre, Linda, le raccontava storie sugli angeli dorati del sole che venivano a toccare la superficie della terra ogni mattina. Scendono ogni mattina portando luce. Mentre la maggior parte di loro torna indietro, alcuni rimangono con i nostri amici Gigi per mantenere la nostra terra calda e darci calore, forza, energia e cibo, in modo che i bambini come te possano giocare tutto il giorno. Gli amici Gigi? Sì, abbreviazione di gas serra, metano, anidride carbonica e protossido di azoto. Se non fosse per loro, la nostra terra diventerebbe molto fredda e la vita non sarebbe possibile. Dobbiamo molto agli amici Gigi. Adoro gli amici Gigi! Fantastico, tesoro! Ora vai a dormire. Ma mamma, e se tutti gli angeli dorati del sole decidono di rimanere con gli amici Gigi? Cosa succederebbe? Bene, allora il mostro gigante del riscaldamento globale si risveglierebbe e questo sarebbe qualcosa che non vogliamo. Il mostro del riscaldamento globale? Basta con le domande ora, cara. Chiudi gli occhi e vai a dormire. Ok, buonanotte, mamma. Buonanotte, tesoro. La mattina dopo, Hope si svegliò al suono del capo del villaggio che parlava con sua madre. Linda, la profezia si sta avverando. Penso che sia iniziato. Di cosa stai parlando? Il ghiacciaio a nord della nostra isola ha iniziato a sciogliersi. E il caldo? Oh, il caldo! Sta peggiorando le cose. Glowar si sta svegliando. Hope ascoltò la loro conversazione e andò immediatamente da loro. Cosa sta succedendo? Il mostro Glowar si sta svegliando. Glowar? Niente, Hope, vai a lavarti i denti. La colazione è pronta. Con una faccia imbronciata, Hope si voltò. Mentre camminava, sentì sua madre sussurrare al signor Ramsay. Non spaventiamo i bambini. Quando ci sarà l'incontro dei capi? Stasera, a casa mia. Ok, ci sarò. Hope aveva sentito tutto. Mentre si lavava i denti, iniziò a immaginare un mostro nella sua testa. Il mostro aveva gli occhi infuocati e lanciava fuoco sciogliendo il ghiaccio. No! Hope? Hope rimase sorpresa quando Linda entrò. L'acqua del rubinetto continuava a scorrere. Va tutto bene, cara? E perché stai sprecando tanta acqua preziosa? Chiuse il rubinetto e si girò verso Hope, che sembrava spaventata. Cosa c'è, tesoro mio? Mamma, per favore, dimmi cosa succede. C'è davvero un mostro? Linda si rese conto che non poteva più nasconderlo a sua figlia. Hope, penso che sia ora di parlarti di Glowar. Linda portò Hope a letto e mentre si sedevano, cominciò a raccontarle tutto. Ricordi gli angeli dorati del sole che scendono ogni mattina portando luce e calore e che alcuni di loro restano con i nostri amici Gigi per aiutarci? Sì. E se tutti decidono di rimanere qui, il mostro del riscaldamento globale si sveglierà. Sì, corretto. Il mostro si chiama Glowar e oramai dorme da secoli. Ma a quanto pare ora si è svegliato. Cosa? Ma come? Lontano da qui, nella città di Londra, New York, Shanghai e Mumbai, la gente vive una vita molto diversa. Non si preoccupano della natura come facciamo noi. Cosa fanno, mamma? Vivono nel mondo industriale, dove fabbriche e macchine lavorano tutto il giorno per produrre in serie strumenti, cibo, vestiti, case, veicoli e altre cose che semplificano la vita. Non è una buona cosa, mamma. Lo era, fino a quando non iniziarono a tagliare gli alberi e queste fabbriche e macchine iniziarono a produrre tonnellate di fumo, inquinando l'aria. E producendo molta anidride carbonica, metano e ossido di azoto. I nostri amici Gigi! Amore mio, l'eccesso di qualcosa non è una benedizione, ma una rovina. Cosa vuoi dire, mamma? I nostri amici Gigi creano uno scudo intorno alla Terra per intrappolare il calore del sole, che mantiene calda la Terra. Questo si chiama effetto serra. Ma con un eccesso dei nostri amici Gigi, lo scudo diventa più spesso. Più spesso diventa lo scudo, più il numero degli angeli dorati del sole rimane qui. Più sono gli angeli d'oro che rimangono qui, più calda diventa la Terra. E una Terra molto calda risveglierebbe Glowworm, il mostro del riscaldamento globale. Lui, con il suo immenso calore, inizierebbe quindi a sciogliere i ghiacciai, provocando l'innalzamento del livello del mare, causando inondazioni di massa, ondate di calore, siccità, brufere di neve, tempeste di pioggia e infine l'estinzione di molte specie. Mamma, non va bene! La gente non conosce il mostro del riscaldamento globale! Sarai stupita di come la nostra specie vive nell'ignoranza. Alcuni pensano che non raggiungerà mai un punto in cui Glowworm diventerà più potente di noi. È davvero triste. È così, bambina mia, è così. Ma non preoccuparti, la mamma sistemerà tutto. Adesso vai a fare colazione. Più tardi quella sera, Linda incontrò il signor Ramsay e gli altri capi di IceCap a casa sua. Tra gli altri c'erano Miss Cherry e Saint Wormwood. Suggerisco di piantare sempre più alberi in modo che consumino l'eccesso di anidride carbonica. Oh, ma mentre noi piantiamo gli alberi qui, le città continuano a tagliare loro. La deforestazione è la principale ragione del risveglio di Glowworm. Abbiamo più anidride carbonica che alberi per consumarla. Perché la gente delle città non può essere più responsabile? Beh, incolpare qualcuno non è di alcun aiuto a questo punto. Augustus, mio nipote, mi ha informato che la nostra isola ha iniziato ad affondare perché il livello dell'acqua sale a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Ho bisogno di soluzioni, Linda. Hai qualche suggerimento? A questo punto posso solo pensare ad una soluzione. L'albero della vita. Nel sentir questo, rimasero tutti scioccati. Non sei seria, vero? Non facciamo le cose troppo in fretta. Ma questa è la nostra unica opzione. Linda, so che hai ragione, ma nessuno è mai stato in grado di raggiungere l'albero della vita. Il percorso verso di esso è pieno di tempeste, onde turbolente, uragani, tornado. E supponiamo che se qualcuno riuscisse a superarli, allora il freddo pungente congelerà istantaneamente qualsiasi forma di vita. Ma non abbiamo altra scelta. IceCap sta affondando. Glowworm sta conquistando il mondo. Beh, preferirei stare qui a IceCap e viverci fino alla fine piuttosto che attendere l'inevitabile. Sono d'accordo. Odio dirlo, Linda, ma anche io. Bene, bene. Siederete qui e aspetterete che Glowworm scateni la sua ira su di noi, ma io non lascerò che mia figlia e le generazioni future siano private di una vita felice e contenta. Andrò all'albero della vita. Linda, no, non essere sciocca. Linda aveva deciso. Si alzò e mentre faceva un passo avanti, perse l'equilibrio, inciampò e cadde. I capi corsero immediatamente verso di lei. Stai bene, Linda? Proprio allora Hope, che era rimasta fuori tutto questo tempo ad ascoltare la loro conversazione, entrò dentro e corse verso sua madre. Mamma! Hope, cosa stai facendo? Ah, qui! Mamma, stai bene? Penso di essermi fratturato un piede. Fa molto male. Linda venne fatta sedere sulla sedia. Saint Wormwood prese la sua bottiglia di pozione curativa e le diede un cucchiaio. Questo ti toglierà il dolore e ti aiuterà nella guarigione. Ma stai certa che sicuramente non potrai camminare per le prossime settimane. figuriamoci andare all'albero della vita. Ma qualcuno deve andare, altrimenti saremmo tutti condannati. Mamma, andrò io. Tutti in quella stanza furono scioccati. Un raggio di speranza andrà avanti nella seconda parte, in cui Hope partirà per il suo viaggio per salvare il mondo. Riuscirà a raggiungere l'isola dell'albero della vita? Riuscirà a salvare il mondo da Glow War? Sarà troppo tardi perché l'umanità affronti il riscaldamento globale? Scoprilo nella prossima parte di Un raggio di speranza.